ad alta voce, edizione 20 anni. Valentina Carnelutti legge Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani. 8ª puntata. Lunedì 5 marzo, dunque, Hogarth ritrae Sara seduta sola nella sua cella, le braccia appoggiate a un tavolo, con la cuffia intorno alla testa girata di profilo. Il volto è duro, il naso aquilino, la bocca stretta e sottile, la fronte larga, un volto da uccello da preda trasognato e deciso. Un volto singolarmente privo di puerilità. Il busto proteso si appoggia sulle forti braccia, nude fino al gomito, su un tavolo dove giace un rosario. Ma 3 giorni dopo, i giornali riportano l'annuncio della messa in vendita di un'incisione tratta dallo stesso Hogarth dal suo ritratto a olio. In questa incisione, Sara ha perso un po' della sua forza a favore di una certa eleganza. Le braccia si appoggiano affusolate sul tavolo. Tutte le copie pirate dell'originale seguiranno questa versione ingentilita, spesso rovesciandola, il volto di Sara girato verso destra e sostituendo il rosario con altri oggetti, un calamaio, una lettera, un coltello. Sembra che Hogarth, appena entrato nella cella, dicesse a Sir James: «Vedo nei tratti di questa donna che è capace di qualsiasi nefandezza». Questa sua dichiarazione, John Ireland, biografo di Hogarth, la commenta così: «Della sua abilità fisionomica ho un'altissima opinione, ma dal momento che Sara posò per il ritratto dopo la sua condanna, sospetto la sua osservazione di somigliare a quelle profezie fatte dopo il compimento di eventi che pretendevano di prevedere. Ha la bocca serrata, narici dilatate, occhi penetranti, con un'aria che suggerisce capacità di osservazione e coraggio virile, ma non ci vedo né depravazione né crudeltà. Sebbene il suo comportamento, in questo come in altri atti similmente orribili, riveli una singolare porzione di entrambi e ne faccia una Lady Macbeth dei bassi fondi». Tuttavia, la convinzione di Hogarth si ripercuote nel ritratto. Non vi è pietà per lei in quelle forme, non vi è simpatia fra modello e artista. Da allora, la faccia di Sarah Malcolm è quella, e quella la sua espressione. Infinite varianti e riproduzioni sono state fatte di quel ritratto. La vicenda di Sarah Malcolm è stata illustrata momento per momento, dalla rapina nelle stanze di Mrs. Duncombe all'esecuzione in Fleet Street. In alcuni di questi ritratti il volto di Sarah acquista nobiltà ed eleganza, ma nessuno di essi dà adito al dubbio. Tutti la mostrano colpevole. Ancora oggi i cataloghi che mostrano incisioni di Sarah Malcolm attribuite a Hogarth la presentano come una brutale assassina, citando a suo beneficio la definizione di John Ireland, «A Lady Macbeth in low life». Il ritratto di Sarah Malcolm, unico suo titolo alla memoria, è il ritratto di un'assassina. Chi sono gli Alexander? Un minuto prima della fine, tante domande cercano risposta. E prima di tutto, chi sono gli Alexander? Chi sono i due complici che Sara accusa dell'omicidio delle 3 donne? 2 ragazzi innocenti trascinati in carcere dal desiderio dell'assassina di salvarsi la pelle? O 2 feroci assassini pronti a ogni impresa? Thomas e James Alexander sono 2 fratelli irlandesi, rispettivamente di 21 e 17 anni. In calce all'interrogatorio di Sara, condotto da Sir Richard Brocas, si legge a stento che Thomas e James Alexander risiedevano at Mothers in Brooks, M, near Brook Street at the sign of the Lancashire Witch. Vivono dunque con la madre all'insegna della strega del Lancashire e questa madre, come vedremo, non è sconosciuta a Sara. Il più giovane dei due fratelli, James, era stato assunto 3 settimane prima per spillare birra alla Red Lion Ale House a Bridewell Bridge da Mr. Ackerman. Il lunedì mattina successivo al delitto si era presentato regolarmente al suo posto di lavoro, ma giovedì, sentendo dire che Sara Malcolm aveva accusato di complicità Thomas e James Alexander e Mary Tracy, dice al suo padrone: «Io mi chiamo James Alexander e ho un fratello che si chiama Thomas e mia madre ha curato una donna da cui Sara viveva». Sentendo questo, Mr. Ackerman informa subito Mr. Alston, il secondino di Newgate, così che venerdì notte vengono a prendere il ragazzo e lo portano a Newgate, dove lo mettono a confronto con Sara. Sara conferma che era stato proprio lui a nascondersi sotto il letto e ad aprire la porta. James nega, ma fornisce l'indirizzo del fratello e di Mary Tracy, che vengono a loro volta arrestati. Furono esaminati separatamente, i due fratelli da Sir Richard Brocas e Mary Tracy dal giudice Gifford. Tutti e tre negarono recisamente di aver preso parte alla rapina e all'omicidio, e Sir Brocas, che esaminò i fratelli, così come il giudice Gifford, che esaminò Mary Tracy, non trovò loro addosso né denaro, né refurtiva, né indizi accusatori al di fuori della testimonianza di Sara. A loro favore vi erano le deposizioni che assegnavano a Mrs. Duncombe ricchezze non superiori a 54 sterline, e siccome ne erano state trovate poco più di 53 addosso a Sara, i presunti complici non furono accusati di nulla, ma solo trattenuti a Newgate per accertamenti. Le pene dei due ragazzi furono però alleviate dalla Temple Society, che, convinta della loro innocenza, concesse loro uno scellino al giorno per tutto il tempo della detenzione. Non vennero processati e il 14 aprile furono rilasciati insieme a Mary Tracy. Queste 54 sterline di Mrs. Duncombe sono uno dei punti della difesa di Sara che restano oscuri. Nel suo memoriale, Sara dirà che 50 guinee sarebbero state prese in tasca alla vecchia domestica, Mrs. Betty, e più di 150 sterline in un cassetto, mentre la testimonianza dell'esecutrice testamentaria, Mrs. Rymer, parla solo di soldi conservati nella cassetta. Può darsi che Sara menta, che avesse veramente dei soldi suoi, o che i complici le abbiano fatto credere di averne trovati di più per esporre lei sola in caso di inchiesta giudiziaria. Ma è anche possibile che la vecchia Mrs. Betty avesse dei risparmi suoi e che Mrs. Duncombe tenesse i soldi in due posti diversi, senza che la sua esecutrice testamentaria ne fosse al corrente. È possibile, anche se poco probabile, data l'accuratezza della testimonianza di Mrs. Rymer. Frances Rymer. Conosco Mrs. Duncombe da 30 anni. In questi ultimi 3 o 4 anni è stata molto inferma e la sua memoria si è degradata, perciò ha voluto che tenessi e curassi i suoi soldi e ha fatto di me la sua esecutrice testamentaria. Pubblico ministero. Quindi avete visto la cassetta dove teneva il denaro? Frances Rymer. Sì, tenevo la chiave della cassetta e il giovedì, prima della sua morte, mi ha chiesto se avevo la chiave. Ho detto di sì e lei ha detto che voleva un po' di soldi. Le ho chiesto quanto e mi ha detto circa una guinea. Così ho aperto la cassetta e tirato fuori una borsa. Era una borsa da 100 sterline, stava sopra il resto del denaro nel boccale. Pubblico ministero. È questa la borsa? Frances Rymer. Era una borsa come questa. Gliel'ho portata vicino al fuoco e le ho dato una guinea. Pubblico ministero. E quanto credete che sia rimasto nella borsa? Frances Rymer. Direi una ventina di guinee. Oltre al denaro contenuto nella borsa c'erano diversi pacchi che teneva avvolti in carta per usi speciali. C'erano 6 pacchettini sigillati con cera lacca nera e credo che contenessero 2 o 3 guinee ciascuno. In un altro pacco mi disse c'erano 20 guinee messe da parte per il suo funerale e in un altro c'erano 18 ludors. Pubblico ministero. Moidors, vorrete dire? Frances Rymer. Sì, credo che li chiamino Moidors. Questi, mi ha detto, erano per me, per rimborsarmi di ogni spesa extra che potesse intervenire. Poi c'era una borsa verde con dentro 30 o 40 scellini per i poveri. La dichiarazione che la madre dei ragazzi Alexander aveva curato una donna da cui Sara viveva è interessante. È probabile che la donna in questione fosse Mrs. Duncombe, che in questi ultimi 3 o 4 anni è stata molto malata, come dice Mrs. Rymer, e che gli Alexander conoscessero già la sua situazione. È importante capire chi fossero gli Alexander e che cosa li legasse a Sara. La testimonianza di James fa pensare che Sara li abbia conosciuti attraverso la madre. Le voci dell'epoca dicevano che Sara ne voleva sposare uno. Sul London Evening Post dell'8-10 marzo usciva questa notizia: che una lavandaia del Temple ha dichiarato di aver incontrato Sara Malcolm con 2 uomini a Cheapside il venerdì precedente il delitto e che Malcolm le aveva parlato in un modo che si accorda con quello che lei stessa ha poi dichiarato, che questa donna era andata da una certa persona residente nel Temple, cui l'avevano indirizzata diversi gentiluomini, lunedì sera scorso per fare questa dichiarazione ed era stato ritenuto opportuno che andasse a Newgate e che vedesse Malcolm e i 2 Alexander, ma a questa circostanza materiale non era stata prestata alcuna attenzione. Questa circostanza materiale cui non viene prestata attenzione è l'unica testimonianza a favore di Sara. Sara aveva dichiarato di aver incontrato gli Alexander a Cheapside il venerdì precedente alla rapina per stabilire insieme i particolari. Se la lavandaia fosse stata posta a confronto con gli Alexander in carcere, avrebbe potuto identificarli. Ma questa testimonianza è stata lasciata cadere. Tanto è ormai indelebile l'immagine di Sara come una solitaria assassina. Pochi mesi dopo essere stati scarcerati, nel luglio dello stesso anno, i 2 ragazzi vengono accusati da un tale Philip Thirst e rimessi in prigione. Ecco che cosa era successo. Domenica 15 luglio, fra le 9 e le 10, la domenica è un giorno ideale per i criminali lavoratori, è il loro unico giorno di libertà. Questo vale per Sara come per gli Alexander, impegnati durante la settimana, ciascuno nelle proprie 12 ore di lavoro. Mentre se ne tornava a casa sua a Paddington, attraversando il prato di Marybone, Philip Thirst viene assalito da 5 o 6 uomini che lo picchiano, lo buttano a terra, lo picchiano selvaggiamente e lo derubano del suo cappello, della parrucca, di un paio di fibbie d'argento e di una fibbia per la ginocchiera. L'indomani Thirst denuncia il fatto e fa il nome degli aggressori: George Sutton, William Simmons, James Baker e i 2 Alexander, descrivendo come erano vestiti. Gli aggressori vengono arrestati e, poiché corrispondono alla descrizione fornita, messi in prigione. Ma ecco che al processo, che si svolge in settembre, Thirst cambia la sua versione. Ora dice non si ricorda più, non li ha visti bene, aveva la testa confusa. Era una notte di luna, dichiara, ma io ero così alterato dalle loro percosse che non posso essere sicuro che siano stati prigionieri. Certe persone sono venute da me il giorno dopo e mi hanno detto che avevano visto i prigionieri in quello stesso prato la notte prima, e su questa testimonianza ho ottenuto un mandato e li ho fatti arrestare come sospetti, ma nessuna delle mie cose gli è stata trovata addosso. John Barry, un testimone, dichiara: uscendo dai prati di Marybone domenica sera ho visto Sutton e Baker e altri 2 che vi entravano. Sapendo che tipi sono quei 2, ne ho concluso che stavano andando a combinarne una delle loro. 3 quarti d'ora dopo mi dicono che c'è stata una rapina e io dico: me l'immaginavo. Il giorno dopo sono andato da Mr. Thirst e suo fratello è arrivato con una pistola in mano e la parrucca di Mr. Thirst trovata nel prato dove è avvenuta la rapina. Ho chiesto a Mr. Thirst se avrebbe riconosciuto qualcuno dei ladri e lui mi ha detto sì, certo. Pensava che c'era uno dei Sutton, perché sono 2 fratelli, se non tutti e 2. Thirst: io non li conoscevo, ma avevo sentito dire che frequentavano quel campo. Non nego di aver detto che magari erano loro, ma ero così malconcio che ero fuori di me e non sapevo quel che dicevo. Barry: nel suo affidavit davanti al giudice Mercer, Thirst ha giurato che i 2 Alexander, Thomas e James, i 2 prigionieri, e James Baker erano gli uomini che lo hanno rapinato. Sono stati tutti arrestati e portati in giudizio e lui ha giurato che i prigionieri erano 2 di quegli uomini e che credeva che James Baker, Thomas e James Alexander fossero gli altri 3. Thirst: le botte che mi hanno dato mi hanno rovinato la memoria a tal punto che non mi ricordo più niente, non so se riavrò mai la mia testa. Barry: se li ricordava benissimo prima di aver passato un po' di tempo con la madre di Sutton. Giudice Mercer. Il 17 luglio, quando il querelante è venuto davanti a me, era fuori di sé e si lamentava per la sua testa. Ci è voluto un po' prima che si riavesse e poi ho preso le sue dichiarazioni. Ha giurato che verso le 10 di domenica sera, vicino al cimitero, era stato assalito da diverse persone che lo avevano derubato e picchiato, che Sutton e Simmons erano due di loro e che sospettava fortemente Baker e i due Alexander. Descrisse gli indumenti dei prigionieri, disse che Sutton portava un mantello color verde oliva scuro e Simmons un panciotto nero e che ricordava benissimo le loro facce. E quando i prigionieri sono stati presi, corrispondevano alla sua descrizione. Thirst. Non ero in me in quel momento. Josiah Allen, poliziotto. Ho arrestato le 5 persone e le ho portate davanti al giudice. Il querelante era là, gli ho mostrato i due Alexander e Baker. All'inizio dichiarò di non conoscerli affatto, ma poi disse che credeva avessero fatto parte della rapina. Poi ho portato dentro Sutton, che aveva un mantello verde oliva, e appena il querelante lo ha visto ha detto: ecco l'uomo che mi ha picchiato e buttato a terra. Alla fine ho fatto entrare Simmons, che aveva un panciotto nero, e lui ha dichiarato che era uno di loro. Gli ho raccomandato di stare attento perché ne andava della vita di quegli uomini. Ha risposto: ne sono certo. Valentina Carnelutti ha letto Il ritratto di Sara Malcolm di Ginevra Bompiani, a cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.